Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E che piacere ogni sabato ritrovarci a confermarci che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Questa volta qual è il motivo, secondo voi? L'ultima cena. Qual è l'ultima cena? L'ultima cena, quella di Gesù, insomma, con gli apostoli, dove annuncia che sarà tradito. Perché? Pensate, c'è stato uno studio della Cornell University negli Stati Uniti che dimostra che anche l'ultima cena non è più quella di una volta. Hanno analizzato 52 celebri quadri che ritraggono, compreso quello di Leonardo, l'ultima cena, e hanno visto che nell'ultimo millennio le porzioni che ci sono presenti nei piatti sono cresciute in modo strabordante, no? Diciamo che questo è emblematico del mondo occidentale, della nostra opulenza, del nostro consumismo anche da un punto di vista alimentare. Ebbene, pensate che negli ultimi 1000 anni la portata principale di Gesù è aumentata nel piatto del 69%, mentre quelle degli altri piatti sono cresciute del 66%, e le pagnotte di pane presente sul tavolo dell'ultima cena sono cresciute del 23%. Insomma, questo la dice lunga. Neanche l'ultima cena è più quella di una volta, neanche le fiere sono più quelle di una volta, no? Fiera dell'artigianato, c'è la fiera dei cavalli, c'è la fiera Cosmoprof, ecco, in questo periodo prossimamente a Bologna, quella dei cosmetici, dei profumi, ma c'è adesso, pensate, no, segno dei tempi, Tanexpo si chiama, è la fiera del funerario che fino a domenica a Bologna ospita 200 espositori da tutto il mondo, e pensate che ci sono ecobare di bambù, il progetto Face Tomb, cioè un cimitero del futuro col volto dei defunti, una specie di Facebook funerario, e poi la possibilità di come si può dire, produrre diamanti dalle cene dei parenti defunti. Insomma, come vedete, non ci sono più davvero le mezze stagioni, ma quello che chiedo a voi è di raccontare dal vostro punto di vista le notizie della settimana, quindi ritornare a riflettere. Questo è un bilancio dei fatti un po' ripensati con libertà. Il numero verde 800 24 00 24, quindi se avete voglia di tornare su una notizia di questa settimana e di dire la vostra, il numero zero. Il numero verde è 800 24 00 24. Ma oltre a voi ascoltatrici e ascoltatori, sapete, mi è inevitabile, no, avere un ospite che io chiamo ogni volta opinionista estemporaneo. Ed è tra pochissimo lo annunceremo, però vi chiedo, per esempio, intanto sapete che siamo in silenzio elettorale, oggi, ieri è stata l'ultima giornata di campagna elettorale, per cui eviteremo dichiarazioni di voto, di dire una cosa in particolare su vado a votare ma voto questo, voto quello. Ecco, comunque riflessioni in generale su questo non c'è nessun problema, come sempre con libertà, d'altronde le cose ci sono sotto gli occhi. Intanto vi ricordo, per chi non se lo ricordasse, che si vota appunto domani e lunedì, domani che è domenica, dalle 8 alle 22 sono aperti i seggi, e lunedì dalle 7 alle 15, scheda verde per le regionali, scheda gialla per le provinciali, azzurra per le comunali. Poi dopo vi informate, però vi dicevo, opinionista estemporaneo di questa puntata è... Pierluigi Battista, che già mi ha fatto prendere un colpo, mi dicono no, guarda, non c'è, caduta la linea, non si trova più. Pierluigi? Buongiorno, sì, ecco. ci sono. Pierluigi Battista. Anche le linee non sono più come quelle non di una volta. Non sono più quelle di una volta, c'era la SIP, tu chiamavi, ma adesso con questi cellulari, tutta questa tecnologia a volte, insomma, ci prende un po' in contropiede. Pierluigi Battista, naturalmente, non ha bisogno di presentazioni, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, è appena uscito per Mondadori, per Rizzoli, con I conformisti, l'estinzione degli intellettuali d'Italia. Dobbiamo preoccuparci quindi, Pierluigi? Per l'estinzione degli intellettuali, no, abbiamo talmente tante preoccupazioni, vero? Ma anche l'estinzione degli intellettuali non credo che sia. Dobbiamo preoccuparci per una presenza molto massiccia di conformisti in Italia, tra gli intellettuali e non solo, ma insomma, e cioè persone che anziché pensare argomenti e chiedersi come vanno effettivamente le cose, la prima domanda che si fanno e a cui vogliono dare risposta è con chi stai, cioè privilegiare la logica quindi dell'appartenenza sulla logica, diciamo, della libera ricerca. Ecco, questo è un po' il grande male. Tu ti chiedi dove sono finiti gli intellettuali irregolari, fa l'esempio di Camus, sì, per esempio, e di altri che anche di fronte a questioni difficili, spinose, magari tradivano la propria parte per dire le cose come stavano in modo oggettivo, per non tradire se stessi. Era un tradire la loro appartenenza per non tradire se stessi. Ci sono vari esempi, l'esempio di Camus. Camus era un grandissimo scrittore, autore di meravigliosi romanzi come Lo straniero, come La peste. Era un uomo di sinistra, molto infervorato, molto appassionato. Un piccolo dettaglio però, che quando scoprì, o comunque insomma si prese atto dell'esistenza del Gulag in Unione Sovietica, lui disse: ma come si fa a essere un uomo di sinistra e tacere su una mostruosità di questo tipo? E quindi lui raccontò queste nefandezze che pure appartenevano alla propria parte. E invece c'era il capofila degli intellettuali conformisti, che era Jean-Paul Sartre, che non contestava Camus la realtà delle cose, ma non è che contestasse dicendo no, non è vero, non c'è il Gulag, ma diceva: non dobbiamo parlarne per non indebolire la compattezza del nostro fronte. Quindi Camus è l'esempio dell'intellettuale irregolare, che non è che non si schiera, ma si schiera a ragion veduta. Fai anche l'esempio di Simone Weil, tu tanto per citare una Simone donna. Simone Weil, no? Di Bernanos. Per un fronte opposto, cioè Bernanos era un intellettuale cattolico, tradizionalista, monarchico, e stava in Spagna e durante la guerra civile in teoria doveva stare dalla parte di Francisco Franco, infatti era dalla parte di Francisco Franco, ma quando vide i massacri dei franchisti non è che stette zitto perché la causa non doveva essere messa in discussione, scrisse un meraviglioso romanzo che si chiamava I grandi cimiteri sotto la luna. Quindi diciamo, uno apparteneva alla sinistra, un altro apparteneva al mondo cattolico, e tutte e due, pur di raccontare la verità, tradirono l'appartenenza, ma non vollero tradire se stessi. Però mi sembra, Pierluigi Battista, che un po' forse di estinzione c'era già allora ai tempi di Camus, perché tu all'inizio del tuo libro metti, no, questa specie di epitaffio: gli chiesi sei triste papà, lui alzò la testa, questa è Catherine Camus, la figlia, lui alzò la testa per guardarmi dietro dritto negli occhi e mi rispose no, sono solo. Quindi già si sentiva solo allora. Mi sembra molto bella, diciamo, ecco, detta dalla figlia, un bellissimo racconto, e appunto non è la tristezza, è il senso di saper affrontare la solitudine, è sapere che il tuo gruppo, il mondo a cui appartieni, ti prenderà a bersaglio, ti daranno del traditore, ti daranno del disertore, ti diranno che tu fai il gioco del nemico e così via, ma tu tiri dritto e certo, senza scontare il prigione, la morte, non è che le sanzioni sono queste, no? L'anticonformista non è che necessariamente deve gli tagliano la testa, no? Un perseguitato, però è una persona che deve sapere affrontare in modo molto ostilità, e quindi saper soffrire la solitudine. La solitudine. Pierluigi, allora, mentre ci stiamo per collegare con facciamo un collegamento extraplanetario, volevo chiederti, tanto per lanciare un po' uno stimolo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che tra poco ci chiameranno all'800 24 00 24 sulle notizie della settimana, dimmi solo il titolo di una notizia che vorresti trattare, poi la approfondiamo dopo. Una notizia molto delicata però, ed è questa delle rivelazioni su il reverendo americano che 30 anni fa molestò, abusò di 200 ragazzi, e che adesso c'è queste polemiche scatenate dalle rivelazioni del New York Times, e questo reverendo che non sarebbe stato, diciamo, come pure avrebbe dovuto, perseguito col massimo rigore da parte della Chiesa. Ecco, ho letto ieri infatti il tuo editoriale sul Corriere della Sera, ma ci torniamo tra pochissimo. Adesso, prima che cada anche questo collegamento, ci colleghiamo con Marte. Riflessioni da Marte. qui da Marte, è inutile dirlo, ogni volta non ci si può mai davvero annoiare a osservare il pianeta Terra nella sua rotonda bizzarria. Come dite lì dalle parti terracque, quando qualcuno sembra venire da un altro pianeta, no? Tanto estraneo, atipico, inconsueto, stravagante, come dite voi terrestri? Che è un marziano. Ebbene, ora vi voglio dimostrare io chi sono i veri marziani, puntando il telescopio verso il globo terracqueo. Tanto per cominciare parlerei di questo osmotico rapporto dei terrestri con il loro, come si potrebbe chiamare, apparato espulsivo, che qualcuno addirittura trasforma talvolta in apparato esplosivo, nel vero senso della parola, perché è proprio notizia di questi giorni che un terrorista suicida che aveva compiuto un attentato in Arabia Saudita aveva nascosto la carica esplosiva niente popò, proprio il caso di dire niente popò, di meno che nel colon, risolvendo in modo radicale, bisogna dire tra l'altro, qualsiasi problema di blocco intestinale. Problemi che invece deve avere un detenuto 21enne nel penitenziario svedese di Kirseberg. Le autorità carcerarie lo hanno avvertito: alla prossima flautolenza, loro in realtà hanno usato un termine diciamo un po' più familiare, scatterà un provvedimento disciplinare. Il carcerato evidentemente ha dovuto ricorrere all'unica arma in suo possesso, no? Quella della flautolenza, appunto, per esprimere, diciamo, il suo dissenso nei confronti dei secondini. E di fronte alla minaccia di punizioni ha assicurato che le sue arie sono, dice, tutto rumore ma niente odore. Cioè, se lo dice lui. Ma non finisce qui a proposito di stramberie terrene. Negli Stati Uniti questa settimana una ragazzina di 11 anni ha partecipato a un concorso e ha vinto $2,500 e un viaggio. Per quale talento particolare, vi chiederete voi? Per essere la proprietaria delle scarpe più puzzolenti d'America. E poi saremo noi qui su Marte, i marziani. Intanto, nella cittadina inglese di Darwen, perché mai le autorità, secondo voi, hanno deciso di abbattere ben 6.000 alberi? In una cittadina quanti alberi ci potranno essere? Ben 6.000 ne hanno abbattuti. Spiegazione delle autorità. Per impedire alla gente di infrattarsi per fare sesso. Come dire che tanto che gli uomini un po' dappertutto, no, hanno il vizietto di fare la pipì in strada, nei vicoli, contro i muri delle abitazioni, per evitare tali inconvenienti allora si dovrebbero abbattere tutte le case. Mi sembra una soluzione. Ma nel frattempo, per via della crisi, chiude in California il museo della banana, ma resiste con successo invece in Gran Bretagna quello della carota. A Milano, intanto, in attesa delle elezioni, alcune scuole con mensa si cimentano in una prova di democrazia alimentare, un referendum sulle lasagne pelose. Lasagne pelose sì, lasagne pelose no, perché qualcuno non gradisce che ogni tanto ci scappi dentro nelle lasagne un po' di cotenna di bovino, così è venuto fuori. Ma primo in classifica questa settimana nei fatti terreni ai confini con la realtà è sempre, consentitemi, il caso Claps. Ora viene fuori che l'attuale vice parroco della chiesa di Potenza, dove sono stati trovati dopo 17 anni i poveri resti di Elisa, sapeva già, questo vice parroco, già da alcuni mesi che lì nella chiesa c'era un cadavere. E perché mai, gli hanno chiesto giustamente gli inquirenti, non ha avvisato in questi mesi la polizia? Perché, risponde Serafico Don Vagno, il vice parroco, volevo avvisare l'arcivescovo, poi non l'ho trovato al telefono e quindi mi è passato di mente. Del resto, diciamolo, no? Sono cose che succedono a tutti. Quante volte vi avranno detto guarda che ho lasciato il latte sul tavolo, poi ricordati di metterlo nel frigo, e spesso vi passa di mente, no? Il latte rimane lì. E quindi ugualmente può capitare che se vi dicono guarda che c'è un cadavere nella stanza di sopra, al momento vabbè, ci fate caso, poi con tutte le cose cui oggigiorno bisogna pensare, no? A uno gli scappa di mente, non è che con lo stress, le bollette da pagare, il traffico, puoi sempre avere in mente che sopra la tua testa c'è un cadavere. E che diamine, ma l'esclamazione di fronte a tutte queste bizzarrie terrene la lascerei alla band svedese degli ABBA, che potrebbe tornare sulla scena in questi mesi. Prego a voi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E ora ritorniamo qui sulla Terra con Pierluigi Battista, che ha appena pubblicato I conformisti, l'estinzione degli intellettuali in Italia. E vi ricordo il numero per le vostre notizie della settimana, già vedo degli ascoltatori e delle ascoltatrici in attesa, il numero verde è 800 24 00 24. Quindi Pierluigi, dicevi questa questione delicata delle rivelazioni, a parte tutti questi scandali della pedofilia tra i sacerdoti che abbiamo sentito dalla Germania, agli Stati Uniti, all'Irlanda eccetera eccetera, in più questa denuncia del New York Times, no, di cui è scritto anche ieri sul Corriere. Sì, ma un pochino colpisce, diciamo, la sincerità di queste rivelazioni, devo essere sincero, perché non vorrei che poi ci fosse anche, se posso fare una divagazione, un modo un pochino corrivo con cui i giornalisti seguono le vicende del mondo. No, nel senso che per esempio che si infierisce su una cosa in particolare, no, ci sono su un filone. Delle ondate, poi queste ondate improvvisamente c'è allarme pitbull, no? Cioè improvvisamente si scopre che in tutto il mondo c'è qualche pitbull che sbrana qualche bambino così. E per una settimana non si fa altro che trovare casi di bambini sbranati dai pitbull. Poi improvvisamente questa emergenza pitbull cessa. E poi oppure c'è l'emergenza malasanità, no? Cioè a un certo punto si scopre che dalla Calabria alla Lombardia, dalla Friuli alla, faccio per dire, delle regioni a caso, si scopre che un paziente è stato trovato con l'ovata ancora dentro la pancia ricucita male da un chirurgo, oppure che qualcuno gli hanno curato la gamba destra anziché la gamba sinistra e così via. I giornali ne parlano, fanno pagine e pagine e pagine e poi improvvisamente non ne parlano più. È un po' questo, diciamo, il timore che stia avvenendo questa cosa anche in questo caso. Cioè, anche se è vero, Pierluigi, perdonami, che qui è una cosa un po' più delicata e può darsi che finora ci sia stata sia omertà che vergogna. È vero che c'è concentrazione tutto in questo momento, questo sì. Volevo ridimensionare il significato, però vorrei che non è che perché una cosa improvvisamente spunta da una parte allora deve spuntare da tutto il resto del mondo, questo è solo intento. Resta il fatto che poi i casi sono singoli tra di loro e quindi vanno valutati nella loro concretezza, insomma, no? Cioè, quello dell'America mi pare particolarmente grave, onestamente, sia perché c'è questo particolare del tutto un po' più efferato, che è questo dei bambini sordomuti, sia il fatto che purtroppo lì è accaduto quello che credo sia accaduto molto spesso, cioè che le autorità ecclesiastiche abbiano preferito, diciamo, soffocare lo scandalo, fare in modo di, insomma, di metterlo, non di far finta di niente, però di metterlo un po' da parte, mettere da parte, evitare conseguenze che in qualche modo potessero essere pubblicamente conoscibili, evitare questa resa dei conti. E tutto questo avviene, diciamo, devo dire, all'indomani di una lettera molto bella di Ratzinger al clero irlandese, in cui si parla del profondo sgomento, senso di vergogna, senso di tradimento per questi atti, e si dice anche che queste persone, questi sacerdoti, dovranno rispondere a Dio e ma anche ai tribunali della giustizia terrena. E questo è molto importante, cioè non ci può essere, diciamo, sottrazione di questi che non sono solo peccati, ma sono reati, alla giurisdizione della giustizia terrena. Certo, questo, se questo significa che da adesso in poi mai più ci sarà una linea di abbiamento, una linea di occultamento, una linea di nascondimento, questo potrà essere, diciamo, uno scandalo che porta, diciamo, così come una svolta, evangelico, uno scandalo che può portare solo del bene. Manuel dalla provincia di Milano. Ah, ciao Roberta. Ciao Manuel. Guarda, complimenti innanzitutto per la trasmissione, che è molto bella. Grazie. E ti ringrazio perché tu sei veramente una giornalista che dà voce a tutti, e questa è una cosa molto bella, e sei sempre gentile con gli ascoltatori. Questo mi applico, insomma, vediamo se ci riesco meglio. Grazie Manuel. Qual è la tua notizia? Ecco, io riguardo all'evento che c'è stato Rai per una notte, no? Sì, ecco, volevo dire che mi era piaciuto sinceramente molto l'intervento di Daniele Luttazzi, l'ho trovato bellissimo, no? Io è un comico che ammiro perché è una persona molto colta, è un comico geniale, ma poi sai Roberta, sinceramente ho trovato anche triste il fatto che lui fosse ormai 9 anni che fosse lontano dalla televisione di Stato, no? Dai tempi del famoso editto bulgaro, quando... Sì, poi era stato sulla 7, adesso sarebbe 3 anni insomma, al netto che manca dalla televisione. Sì, sì, ma vedi, sai cos'è? Il fatto che quando lui fece quella famosa puntata con Travaglio, no? Poi Berlusconi gli fece causa, Luttazzi gli chiese 20 milioni di euro, no? Il fatto che poi questo processo si concluse con la vittoria di Luttazzi, che vinse la causa, no? Però ecco, io una cosa che volevo dire, che mi ha amareggiato: quando Luttazzi ha vinto la causa e Berlusconi dovette pagare le spese processuali, anche sui giornali tipo Corriere della Sera, Repubblica, che sono giornali considerati imparziali o comunque, non ci furono notizie in prima pagina. Poi questa è una cosa secondo me significativa, no? di una certa situazione. Poi una cosa che io trovo, una cosa che mi amareggia sinceramente dal mio punto di vista, no? E io penso che un politico, no? Cioè un qualsiasi politico, di destra o di sinistra, abbia tutto il diritto di dire a me quell'artista, quel comico non mi piace. Il problema è quando un politico arriva a dire a me quell'artista non piace e in televisione non ci va. A quel punto lì, secondo me, si configura una situazione veramente grave. E poi guarda, l'ultima cosa che volevo dire, sì, Roberta, è che secondo me, se un politico di destra o di sinistra, io non faccio, querela un artista e gli chiede 5, 10, 20 milioni di euro, io penso che se poi perde la causa, come è successo a Berlusconi, è troppo comodo cavarsela pagando solo le spese processuali. Bisognerebbe che il politico, prima di fare una causa, versa a scopo cautelativo almeno 1-2 milioni di euro, così se perde la causa quei soldi vanno alla persona che è stata querelata, che ha vinto la causa. Manuel, però posso dirti una cosa, magari che non troverà, ovviamente, visto quello che hai detto, il tuo consenso, la tua condivisione, però io ho trovato la parte finale dell'intervento di Luttazzi, dico una parola forte perché la penso molto sinceramente, deprecabile. Cioè questo fatto di la metafora, no, dell'Italia che la prende in quel posto con una donna e voi fidanzati, intanto rivolgendosi sempre ai maschi, perché diciamo che il soggetto cui la gran parte degli uomini della televisione, dei media, cioè, si rivolgono è sempre in qualche modo maschile, e questo fatto di raccontare nei particolari un rapporto anale con la ragazza che è lì, che insomma fino a un certo punto non è che gradisce molto, ecco, questo l'ho trovato di bassissimo livello, sinceramente, mentre il resto poteva andare, al di là che si sia a destra o a sinistra. Su questa cosa si è criticato tanto negli ultimi mesi un certo modo di una buona parte, così è stato detto, del centrodestra, di vedere, di trattare le donne, e lì mi è sembrato un autogol, ecco, capisci, se voleva in qualche modo differenziarsi mi è sembrato veramente di basso basso livello, Manuel, devo dirti la verità. Ma sì, Roberta, sai cos'è? Il fatto che Luttazzi, il discorso che io ho visto delle sue interviste, no? E lui parlava che, diciamo, lui fa satira, no? E dice la satira. Sì, ma quella non è, secondo me, quella parte finale non è stata satira. Mi è sembrato di un maschilismo bieco, proprio di quello che veramente saremmo stufe. Io donna, spero tante altre donne, ma spero anche tanti uomini. Ecco, quello secondo me si poteva evitare. Manuel, io ti ringrazio moltissimo e vorrei sapere a questo proposito Pierluigi Battista, che ne pensa, Pierluigi? Io non lo so, perché io devo confessare che non ho visto questo evento, non mi dispiace, ero lì che soffrivo per la Juventus e perdeva rovinosamente con il Napoli, e quindi non so. È ripreso dal calcio, diciamo, la testa nel pallone. Come dice? Avevi la testa nel pallone, insomma. No, ma è la Juventus, che è una, diciamo, delle passioni perverse della mia vita, e quindi in questo momento si soffre molto. E quindi non ho visto, per quello che riguarda però, diciamo, la vicenda di Luttazzi, devo dire che effettivamente il fatto che lui non abbia possibilità di andare in nessuna televisione mi sembra veramente grottesco, al di là del gradimento che si possa avere per il suo teatro. Ci sono due dettagli dell'intervento del vostro Manuel, ascoltatore, sì, ecco. Sì. Allora, uno è che, vabbè, quella è satira, però se stabiliamo che esistono, diciamo così, delle categorie umane che possono dire quello che credono, tanto è satira, allora vorrei iscrivermi anch'io però allora all'ordine dei satiri invece che all'ordine dei giornalisti. Così siamo liberi proprio di sparare bianca, che... quindi se io posso insultarti selvaggiamente, in un modo molto selvaggio, poi alla fine dico che tanto è satira e quindi è sacra. E quindi no, lì è stato molto molto volgare. Mi piacerebbe sapere, scusa se ti interrompo Pierluigi, anche gli altri ascoltatori e ascoltatrici, fosse capitato di vederlo, cosa ne pensano. Però sono d'accordo con te, insomma, non è che il termine satira giustifica qualsiasi sproloquio o simulazione di cose, insomma, che mi sembrano sinceramente si possano evitare, no? Ecco, soprattutto quando sono sempre a discapito di qualcuno, ma in questo caso le donne. No, volevo dire, a proposito di una categoria del conformismo, no? Sì. Cioè l'idea che in qualche modo si tende sempre a fare dei discorsi che hanno una doppia valenza, cioè vale se piace a me, non vale se non piace a me. Allora, diceva adesso Manuel, chi intenta un processo per diffamazione e perde, deve pagare. Benissimo. Sì. Allora, se vale questo discorso, allora qualunque persona che poi risulti innocente in un processo che invece ha avuto un grande rilievo pubblico, eccetera, eccetera, deve essere risarcita economicamente da chi ha istruito le indagini. Perché sennò, voglio dire, non è che può valere soltanto una volta, no? Cioè, la legge è uguale o dovrebbe essere uguale per tutti. Se di me sui giornali si parla come di un delinquente e così via, dopo 16 anni, faccio per dire, alla fine risulta che tutto quello, e io ne ho avuto un documento pubblico, diciamo così, parlo di un politico che può anche essere innocente, no? Non è che sono tutti colpevoli. E che alla fine, parlo per esempio di Calogero Mannino, no? Sì. Calogero Mannino è uno che ha troccato la sua carriera politica, è stato delle indagini, e così dopo 16 anni si è scoperto che non c'era assolutamente nulla contro di lui. Allora, chi ha fatto, diciamo, l'azione, non dico chi ha istruito il processo, perché il processo serve per l'appunto per appurare l'innocenza, ma che ha accumulato e che ha fatto in modo così dovrebbe pagare. Certo. Invece non paga mai nessuno, allora non si capisce perché debba pagare solo uno. Allora, se si stabilisce il criterio che chi intenta, come dire, un'azione di questo tipo, se il tribunale gli dà torto, deve risarcire, allora che il risarcimento sia per tutti. Che valga per tutti. Tra pochissimo al numero verde 800 24 00 24 ci saranno Vittorio da Caltanissetta, Oreste da Milano, altri ascoltatori e ascoltatrici, però questo commento, questa osservazione che faceva Pierluigi Battista mi richiama un pezzo di prima pagina oggi del Corriere, che però purtroppo non ho avuto modo di leggere, soltanto la parte iniziale di Aldo Cazzullo, quei delitti italiani senza castigo, una questione diversa ma sempre insomma su questioni di sanzioni, di pene eccetera, pene dimezzate in Italia, assassini in libertà, i paradossi della nostra giustizia, che io solo per il titolo consiglierei di leggere, viste un po' tutte le ingiustizie, effettivamente i paradossi che comunque bisogna riconoscere ci sono nella nostra giustizia, di andarlo a vedere. Intanto sentiamo invece di cosa vuol parlare Vittorio da Caltanissetta o dalla Sicilia. Vittorio, buongiorno. Fai già quasi bagni o no? Siamo quasi a fare il bagno. Beh, e allora, intanto congratulazioni per la trasmissione, e non è una forma di così incoraggiamento, ma a noi piace così. Grazie Vittorio, me lo prendo. Allora, di cosa parliamo? Allora, parliamo di pedofilia e di situazioni un po' particolari in cui si sta trovando adesso la Chiesa Cattolica. Mm. Diciamo che la Chiesa Cattolica in questo momento è un po' in difficoltà. Molti stanno cercando di attaccarla in diverso modo, però poi il fatto effettivamente resta la pedofilia, che si estrinseca in diverse modalità, può essere in collegi cattolici, può essere in collegi che non siano cattolici, abbiamo visto neanche posti in alcune scuole materne dove maestre e bidet e altro si organizzavano per fare dei festini. Mi sta sembrando una situazione un po' cruenta. Dovevo dissentire un po' con l'affermazione di Battista di poco fa, che diceva ogni tanto si prende una situazione così, un pitbull che morde un ragazzino e si fa clamore. Secondo me non è un clamore che deve essere sottaciuto. No, parlava della concentrazione tutta in un momento preciso di notizie di un certo tipo, no? Certo, sembrava una congiuntura un po' particolare. Domani sarà così. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, Vittorio, ti sento un po' a fatica. Sì, è la linea che va e viene, sono fermo in una stazione. Praticamente è la pedofilia che è un suo perché adesso, come sempre, cioè dovrebbe essere un fattore sempre conosciuto e sempre messo in primo luogo, chi che sia a farlo. Sentiamo un po' Oreste, che cosa ha da dire sui fatti di questi giorni. Oreste. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno, volevo semplicemente dire una cosa riguardo a questa questione della pedofilia. Sì. Mi sembra che questo problema sia trattato in modo abbastanza conformistico, nel senso che se... A proposito di conformisti, di Pierluigi Battista. Conformisti, sì. Che se uno non condanna il Papa adesso è dalla parte dei cattivi. Mm. Invece, secondo me, questo, a parte che è un problema di 30, sono problemi di 30-40 anni fa. Sì, qualcuno più recente anche, a parte quelli che dovrebbero riguardare direttamente Ratzinger secondo il New York Times. Sì, però altre cose, A me sembra che la cosa sia montata semplicemente per attaccare il Papa e discreditare la Chiesa, trattata poi da intellettuali, ognuno per sostenere una sua tesi, il celibato, piuttosto che... Non mi sembra che ci sia un interesse reale per la giustizia in questi casi. La giustizia, perché i pedofili, ci sono aerei che partono quotidianamente da Bergamo e vanno in Brasile. Ah, dall'Italia, sì, sì, verso l'Indocina, verso questo sì. Casi di 30-40 anni fa. Anche se però, Oreste, diciamo una cosa, che già è una cosa mostruosa, orrenda, che tanti uomini da sempre, da molto, e continuino, no, a fare questo turismo sessuale e a violentare i bambini, ma anche in famiglia, continuamente. Però diciamo che la cosa più scandalosa, semmai, è che proprio in un luogo, e proprio con delle persone che dovrebbero rappresentare un rifugio fisico e spirituale, no, per gli esseri umani, che proprio da lì invece venga questa terribile violenza. Capisci, Oreste, che cosa è un po' un aggravante? È gravissimo, e però io terrei conto di una cosa ancora, che sono di 30 anni fa e che nella Chiesa oggi non sembra che ci siano più questi problemi, perché anche hanno introdotto nuovi sistemi di scelta dei candidati sacerdoti, ci sono psichiatri adesso, ci sono anche noi, quindi si esclude. Ma il fatto grave è che su questa vicenda si tenta al discredito della Chiesa, semplicemente per affermare un'idea aberrante, che la punizione e il castigo per certi gol, per altri tolleranza massima, perché gli stessi che oggi chiedono la severità da parte della Chiesa su temi analoghi di sesso sono estremamente tolleranti. E in che senso? In che senso, Oreste? La Chiesa ha un altro criterio, della giustizia sì, ma anche della misericordia. Io, se fossi stato in Ratzinger, ammesso che l'abbia conosciuto quel caso del sacerdote tedesco che ha fatto tutti quei cose di pedofilia, di fronte a una persona che stava per morire, anch'io avrei fatto lo stesso, perché secondo me la Chiesa ha un altro criterio. Lo so, però io direi, Oreste, perdoni, no, è chiaro il tuo pensiero, io direi che di fronte a certi delitti orrendi, quando sono oggettivamente provati, insomma, la giustizia deve essere davvero uguale per tutti. C'è Annarita da Roma. Sì, buonasera Roberta. Buonasera Annarita. Io, a parte, concordo perfettamente con quello che ha detto lei rispetto al fatto alla punizione di certo tipo di crimine. Comunque lo chiamavo semplicemente perché mi trovo perfettamente in linea col suo pensiero per quanto attiene, diciamo, la performance del signor Luttazzi, nello specifico che lei ha citato. Sì. Io diciamo, sono con la parte finale molto volgare nei confronti delle donne, questo sì. Io sono perfettamente d'accordo con lei, voglio anche dire che io sono peraltro un'elettrice di sinistra, quindi paradossalmente potrei dire no, tutto bene, non lo farei mai. Non sei conformista, come dice Pierluigi Battista, assolutamente, non solo, ma io inviterei le donne tutte a ricordarci sempre che noi abbiamo un livello più alto di relazione tra di noi, in cui possiamo trovarci veramente forti e unite. Grazie. Al di là proprio di ogni colore, di ogni per motivi profondissimi che non sto qui naturalmente ad elencare, ma che possiamo immaginare. Ti ringrazio, grazie Annarita. Di nulla, Roberta, buona trasmissione. Grazie, buona continuazione a te. C'è Alessandro da Senigallia, quindi siamo nelle Marche. Siamo nelle Marche, sì, provincia di Ancona. Oh, come stiamo? Pronto? Da quelle parti? Buon pomeriggio. A queste parti c'è un po' di sole, ma stanno arrivando delle nubi da Rimini. È tutto un rannuvolamento globale, globalizzante, un diciamo. Globale, ecco. Sì. Che ci dice Alessandro? A proposito di Luttazzi, sì. Sì, verissimo che la performance satirica relativa alla prestazione sessuale verso l'Italia può aver dato fastidio, non penso che sia assolutamente lesivo delle donne. No, perché lì faceva il caso che in genere dice voi fidanzati, voi maschi con la vostra fidanzata, quando fate il, diciamo pure il rapporto anale, allora lei si mette così, voi fate così, ma lei all'inizio sta così, poi sta cos'ha, cioè quella deve essere la metafora dell'Italia, ma intanto è anche, includeva tutte fanno, le donne, quindi, che si trovano in quella situazione. Non è che Luttazzi abbia inventato niente, abbia descritto delle situazioni e delle sensazioni che alcuni conoscono sicuramente. No, ma che c'è? Poi nel nostro privato possiamo fare di tutto, no, se siamo consenzienti. Però il punto era un altro. Se si parte dal presupposto che quello è un atto negativo, va ricordato che quell'atto negativo in quel momento non viene fatto sulla donna, ma viene fatto sull'Italia da una persona ben precisa. No, quindi lo so, lui citava Berlusconi. Aver provocato quella situazione è relativa a tutta un'altra situazione politica che ben conosciamo, e il punto di vista di Luttazzi su quello è chiarissimo. Non la penso così, Alessandro, ma accolgo il tuo pensiero, la tua interpretazione. Nel senso, poteva dirlo in un altro modo, poteva dire l'Italia lo prende in quel posto, invece far vedere, ecco, succede esattamente quello che fate voi, sempre rivolto ai maschi, con la vostra ragazza quando la mettete a 90 gradi, insomma, diciamo le cose, cerco di non scadere nel linguaggio che ha avuto Luttazzi nelle simulazioni, però questo voleva dire. Poteva trovare un altro modo per dire che l'Italia viene, dal suo punto di vista, fregata in questo modo, no, Alessandro? Che non fare l'esempio di tutti i fidanzati maschi con la loro donna quando la mettono in un certo modo. Ecco, questo io dico, poteva evitarlo, poteva trovare un metafora diversa. Ma io penso che il discorso che lui abbia potuto provocare nelle persone poi sia proprio relativo al fatto che quell'atteggiamento viene riversato sull'Italia. Ma insomma, io avrei trovato un altro modo, devo dire, si può essere un po' più raffinati. Secondo me la satira prevede anche un'intelligenza un pochino superiore, ecco, se no, altrimenti tutti siamo capaci di dire volgarità, spararle così senza ritegno e dire con questo volevo dire quest'altro, d'accordo, però insomma si può fare in un modo meno grossolano. Alessandro, ti ringrazio e vorrei ripassare la palla a Pierluigi Battista, se vuoi restare su questo tema, Pierluigi, oppure ci quale sono talmente tante... Pronto? Sì. Quale tema? Luttazzi? L'ultimo mi pare Luttazzi, però... C'è un cortocircuito mentale, diciamo, tra le due... No, su Luttazzi, ripeto, non l'ho visto, quindi no, ma invece sulla pedofilia, che mi sembra, sì, devo dire più... bisogna dire questo, secondo me ci sono due cose di cui bisogna tener conto. Mm. Primo, che l'argomentazione... di molti cattolici non mi trova consenziente, nel senso di dire questo avviene anche, appunto, dappertutto nella, no, società laica. Allora, questo naturalmente uno implica un sacerdote deve avere qualche responsabilità in più, certo, diciamo, qualche un educatore, certo. Devo dire la verità che però c'è anche da parte, tra virgolette, laica anche lì un doppio standard, perché io ho trovato scandaloso che tutti gli artisti, i grandi artisti, hanno fatto un manifesto in sostegno di Roman Polanski quando l'hanno arrestato. Ah sì, certamente. No, allora lì diciamo... No, siamo d'accordo, anch'io in quel caso l'ho detto. Siamo d'accordo, però mi piacerebbe che, insomma, diciamo che, allora mettiamo che chi ha firmato quel manifesto a favore di Polanski, così come vale l'argomento contrario, si astenesse dal giudicare le cose della Chiesa. Cioè che chi ha sostenuto che la giustizia americana è stata troppo severa, che lo raggiunge dopo 30 anni del fatto, cioè tutti quelli, non solo gli artisti ma anche i giornalisti, gli intellettuali che parteciparono a quel dibattito, dovrebbero tacere e dire su questo argomento la Chiesa, perché non si può pensare che no non ci possono essere due pesi due misure, no assolutamente, hai ragione su questo, ci mancherebbe. Il discorso vero è che non è, secondo me, un problema di misericordia, come però ha detto un nostro ascoltatore. Lì, sì, si è evitato per anni di fare i conti con questa realtà, che devo dire lo stesso che è scritto nella stessa lettera pastorale di Ratzinger al clero irlandese, cioè è un'autocritica della Chiesa quella lettera, va letta con attenzione, perché è lì che si dice abbiamo sbagliato. Bene, adesso appunto non si deve sbagliare più, non è il problema, diciamo, di piangere sul latte versato, non si può sbagliare più, cioè non si può più avere indulgenza verso questo tipo di cose, perché poi noi abbiamo anche, ciascuno di noi ha una certa memoria, no? Del, come dire, qui non stiamo parlando, secondo me, perdonami, non c'è da mettere, non è questione degli orchi che fanno turismo sessuale in Thailandia, perché poi qualche volta c'è anche qualche cosa di meno di questo, stiamo parlando di cose, palpeggiamenti, sì, cose, sì, insomma, molesti, che è un pochino diverso, insomma, sì. Diciamo, non voglio fare una classifica di gravità, voglio semplicemente dire una cosa di buon senso, no? Cioè che un ambiente di collegi, cose così, è un po' diverso dalla cosa, però appunto comunque vanno sanzionate, insomma, punto, vanno sanzionate, capito? Non con condanne esemplari, ma con normali condanne, così come avviene per un laico, per un civile. Questo, diciamo così, la Chiesa non l'ha mai fatto, e questo sconta, diciamo, la gravità di quello che sta accadendo, è che non l'ha mai fatto nel passato e quindi sta pagando questo prezzo. Anna da Bologna, prima di sentire le informazioni per chi sta viaggiando, hai voglia, Anna, di dire giusto l'argomento, poi dopo andiamo più in fondo? Sì, la faccio prestissimo. Sì. Dunque, innanzitutto sono d'accordo con lei, con te. Sì, per quanto detto nell'ultima parte dell'intervento di Luttazzi. Mm. E ho sentito diverse donne, sono assolutamente d'accordo, ho sentito anche Chiara Valentini alla radio l'altra sera, sì. E l'ha detto anche lei, giornalista sì, dell'Espresso, sì, mi pare. Sì, sì. E dunque volevo dire che la notizia che più mi ha turbato e mi ha indignato, non so neanche più dire come, è stata quell'affermazione che nel programma del governo c'è anche questo, che in tre anni, assieme a tutte le altre cose, le riforme, eccetera, eccetera, riforma giustizia, riforma di tutto, verrà debellato il cancro. Ecco, questo, ecco, anche adesso che lo dico mi sta venendo la pelle d'oca, perché questo dimostra che nonostante si dice che, anzi è stato detto dal nostro Presidente del Consiglio che l'ha avuto, la prostata, così, ma dimostra che non conosce assolutamente questa malattia. Io purtroppo sono unico superstite della mia famiglia d'origine e sono morti tutti per cancro, anche perché sono morti diversi anni fa. Ho cominciato nel 53, mio padre 40 anni, mia sorella nell'81 ne aveva 34 e la mia mamma nel 90 ne aveva 78. E quindi dici, sai di cosa parli, insomma? Ogni malattia, io conosco tanti oncologi, ho conosciuto tanti oncologi piuttosto, con tutta questa schiera di malati di tumorali oncologici. Ho conosciuto anche il professor Veronesi, una persona proprio speciale, anche dal lato umano. E ecco, io direi che di lasciare parlare gli scienziati, non di fare queste sparate, perché non vorrei che saltasse fuori un altro caso di Bella che hanno fatto morire tanti bambini con la leucemia. Anna, con no, sciocchezze. È chiarissimo, che è la tua esperienza e quello che vuoi dire su certi argomenti, insomma, ci vuole veramente la massima prudenza. Grazie Anna, ma vogliamo anche capire molto sinteticamente, molto brevemente, così gli lancio già un messaggio subliminale, che tempo ci sarà nei prossimi giorni e se la primavera già, insomma, si sta avvicinando. Io vedo prati, quando vado a correre, prati blu invece che verdi, con tutti questi fiorellini, gli occhietti della Madonna, occhietti di Gesù, quelli chiamati, sono bellissimi. È così, colonnello Giuliacci, siamo in primavera praticamente? Ciao, gli ascoltatori, sì, diciamo siamo in primavera, lo dimostrano le temperature che oscillano ai valori massimi tra 15 e 20 gradi, tali resteranno per tutta la settimana. Non garantisco il cielo sereno per tutta la settimana, anche oggi e domani sì è bel tempo, ma ci sono qua e là dei nuvoloni, soprattutto sui rilievi nelle zone interne del centro, qualche isolato rovescio. E là vuoi dire cose sporadiche, no? Niente. Non di si può avere tutto nella vita, insomma, sì. Anche sprazzi di sereno ovunque. Domani una giornata ancora migliore, bellissima al mattino, al pomeriggio qualche timido rovescio, diciamo, su rilievi abruzzesimo di sale. Purché siano timidi, sì. Ecco, poi lunedì nuvole in aumento al centro-nord, ma senza fenomeni, perché arriva una nuova perturbazione. Ecco, tra martedì e giovedì il tempo sarà bruttino, ma ancora temperature gradevoli sul nord Italia, sulle regioni tirreniche, ma poi venerdì probabilmente migliore. Questo potrebbe essere, direi, la svolta. Andiamo a Pasqua, forse, con il bel tempo, però non ci pronunciamo ancora. Colonnello, impegnati, quindi impegnati, perché bisogna avere la Pasqua, Roberto, più o meno sereno. Sono qui apposta a guidare il tempo, rinchiuso anche la domenica, il sabato domenica in ufficio. Contiamo su di te, colonnello Giuliacci. Ciao Roberto, un salutone a tutti. Ciao colonnello. E adesso invece sentirei ancora una vostra telefonata di Silvia da Rovigo. Silvia? Buongiorno Silvia. Silvia dalla provincia di Rovigo. Sei proprio tu, sì. Senta, io ho seguito la vostra trasmissione e volevo ritornare un attimo sul discorso della pedofilia. Sì. È premesso che a me questo termine non piace per nulla, perché pedofilia dal significa... greco sembrerebbe amore per i piccoli, bambini, questo è tutt'altro che amore per i bambini, è abuso sui bambini, la cosa più aberrante che possa esserci a mio modo di vedere. E la cosa gravissima è che questo abuso sia stato fatto da degli uomini di chiesa perché dovrebbero essere i primi a portare la buona notizia che è liberazione del Vangelo, e quindi questo per forza di cose porta ad un allontanamento da quella che è la fede, la religione, e con, quindi con delle ricadute gravissime secondo me. E poi il fatto che anche se fosse stato, mi riferisco a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, anche se è un anziano, un prelato, voglio dire di una certa età, che ha fatto una cosa di questo genere, questo non giustifica nulla, e perché di fatto, voglio dire, anche se il reato non fosse più perseguibile, di fatto deve essere denunciato in un qualche modo. E quindi volevo sottolineare la gravità proprio del fatto che sia stato fatto da degli uomini di chiesa, insomma, quindi un'assoluta aberrazione. Grazie, ecco. Silvia, grazie da Rovigo. E ci spostiamo man mano, adesso in varie parti d'Italia continuiamo anche con le vostre telefonate, con interventi di ospiti illustri come Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale avevo anticipato, vorrei chiedere appunto, a proposito c'è il caso Claps, ci sono e la pedofilia nella chiesa e altre cose, omertà direi che è un termine che possiamo analizzare effettivamente come emblematico di questi giorni, Valeria. Come no, davvero emblematico, parola molto nominata che ricorre in tanti articoli di giornale. Il significato lo sappiamo tutti, omertà si usa sia per indicare l'intesa che vincola i membri della malavita al silenzio e a coprire un colpevole, oppure in senso estensivo anche l'intesa tra i membri di un gruppo, di un ambiente che per interesse personale insomma non denunciano gli autori di un reato. La storia della parola, fino a qualche tempo fa non si conosceva bene, si supponeva per esempio che venisse addirittura dalla parola homo, perché si pensava che l'omertà sarebbe la qualità propria dell'uomo d'onore. Ora invece si propende per una derivazione dalla parola umiltà, anzi dalla variante napoletana di umiltà, e che poi è diventata omertà, perché inizialmente si parlava della società dell'umiltà, era il nome antico della camorra, e per il fatto che gli affiliati dovevano sottostare a un capo, quindi facendo professione di umiltà per l'appunto. Altra curiosità, la parola quindi è piuttosto recente, ne conosciamo attestazioni solo dalla fine dell'Ottocento, addirittura l'aggettivo omertoso solo dagli anni Ottanta del Novecento. Questa volta concludo non con un commento, dato l'argomento, non con un commento sorridente come le altre volte, ma con un'osservazione di altro genere, che è questa: omertà e solidarietà non sono sinonimi, quindi facciamo attenzione a distinguere non solo le due parole, ma soprattutto i due concetti che esprimono comportamenti molto diversi, molto lontani tra di loro per tutto quello che abbiamo sentito oggi. E non è solo una questione grammaticale. Grazie Valeria Della Valle. Prego, arrivederci. Cara Valeria, io intanto, mentre chiedo perdono a Irma dalla provincia di Roma, che non credo che riusciremo a sentirci, Irma, se chiami la prossima settimana anche gli ascoltatori dopo di lei, perché adesso vorrei invece chiudere con un commento di Pierluigi Battista sulla notizia che vuole. Ce n'erano moltissime, questa volta non ve l'ho fatto l'elenco, volevo lasciare più spazio a voi, però ci sono le elezioni regionali, il pacco, la busta esplosiva alla Lega che è arrivato, un proiettile spedito a Berlusconi, poi sullo speciale di Santoro vedevo oggi Masi, direttore generale della RAI, che attacca Santoro e dice ora deve essere licenziato, il caso Claps, i bambini vicino Vicenza che i cui genitori non hanno pagato la mensa e quindi la sindaca ha deciso che dovevano mangiare a pane e acqua, il diritto di bestemmia che chiede il sindacato dei calciatori, non so, Pierluigi, su cosa chiuderesti diciamo in 34 secondi? Ma io direi che il diritto di bestemmia dei calciatori mi sembra veramente un po' una bizzarria, no? Una stravaganza, insomma, si sa, sono cose come che ci sono telecamere dovunque, insomma, evitassero di bestemmiare in campo, punto. Diciamo, non se ne sente la necessità. Non è una sofferenza atroce, no? Non bestemmiare. Poi esistono tanti, diciamo così, possibilità alternative che non, per poter imprecare contro qualcuno, ma addirittura mettere insomma l'articolo della Costituzione per bestemmiare il campo, mi sembra che sia un po' una sproporzione, onestamente. Senti Pierluigi, in questi ultimi 4 secondi, un modo per un antidoto per non essere conformisti, visto che il titolo del tuo libro è Conformisti. Leggere di tutto, cioè non guardare soltanto i film che fanno parte di un tuo mondo, gli spettacoli teatrali che sono del tuo mondo, libri che già sai che ti piaceranno, senza nessuna curiosità per idee, impostazioni, estetiche diverse. Sforzarsi di andare un po' oltre l'ostacolo. Certo. Per Luigi Battista, io ti ringrazio, ricordati dell'ora legale. Metti stanotte l'ora avanti, le lancette avanti di un'ora, purtroppo. Te lo ricordi? Ecco, purtroppo così dormiamo meno. Grazie per Luigi Battista, grazie naturalmente all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Roberta Giordano, come sempre, augura sereni orizzonti a tutti.